bel guardo m'assicura di quei occhi amorosetti, che più tardi che più aspetti, che più tardi che più aspetti, a te dar la tua ventura, che più tardi che più aspetti, a te dar